la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:31 primi e 5 secondi in diretta qui da Milano, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto come sempre. Oscar Giannino, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar, la versione di Oscar @radio24.it e vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Facciamo una riflessione oggi. Oggi è un'altra giornata di dati dopo quelli molto positivi dell'occupazione ieri. Oggi abbiamo il raddoppio della stima del PIL nel primo trimestre da parte dell'Istat, probabilmente lo avrete già sentito, non più 0,2 rispetto al più 0,5 della lavoro area, ma più 0,4, quindi respiro di sollievo, molte scorte a dire la verità e un innalzamento della stima del contributo al valore aggiunto da parte dei servizi, che però sono pur sempre il 73% del PIL, e questo quindi fa vedere i conti e l'andamento italiano, sia l'andamento del PIL di quest'anno sia i conti pubblici, significa più entrate come ovvio, con una ottica meno, diciamo così, deludente di quanto non fosse due settimane fa all'atto della prima stima del PIL, cioè continuiamo a crescere meno del resto dell'euroarea e dell'eurozona, ma con una proiezione per l'anno che potrebbe essere superiore all'1% all'1,1%, sempre poco, intendiamoci, però detto questo meglio un po' di più che un po' di meno. E questo si accompagna come notizia del giorno al fatto che il ministro Padoan si porta avanti in vista del calendario politico della possibilità di elezioni anticipate a settembre-ottobre e quindi scrive subito alla Commissione europea in risposta a ciò che la Commissione europea ci ha chiesto due settimane fa e cioè un intervento su il deficit tendenziale e programmatico del 2018 e sommando le diverse componenti, cioè lo 0,6 che ci veniva chiesto l'Unione Europea, lo 0,2 precedente, la richiesta e l'attesa quindi dell'Unione Europea fin da adesso, elevata a chiunque poi dovrà fare la legge di bilancio del 2018, era di un intervento correttivo pari a 0,8 punti di PIL, mentre nella lettera che il Ministro dell'Economia Padoa manda oggi alla Commissione Europea, ricorrendo al consueto utilizzo di una stima leggermente diversa dall'output gap e quindi del deficit strutturale da calcolare nel nostro paese corretto per il ciclo, il ministro dell'economia dice no, la nostra veramente disponibilità e i nostri conti ci dicono che la manovra correttiva sarà di 0,3%, non di 0,8%. In altre parole, ve lo traduco, l'obiettivo programmatico del DEF di aprile scorso per il 2018 era di un deficit dell'anno prossimo dell'1,2%, ma con le clausole di stabilità, cioè con l'aumento di 19,5 miliardi dell'IVA al 25% che scattava. Quell'obiettivo era chiaramente da non prendere troppo sul serio, anche perché sempre nel DEF si diceva che comunque il governo Renzi, il governo, perdonate, Gentiloni, non avrebbe fatto scattare le clausole di stabilità, cioè l'aumento dell'IVA. Nel frattempo la Commissione europea, con cui Padoan ha ingaggiato da tempo un lungo negoziato, a propria volta nel richiedere all'Italia quello 0,6 più 0,2% 0,8 di correzioni, lo faceva non più sull'obiettivo programmatico dell'1,2% ma sul 2,3%. E quindi con la stima che davvero non si sarebbero poi attuate le clausole fiscali di garanzia. Con la lettera di oggi Padoan dice noi comunque non scenderemo in nessun caso sotto un deficit dell'1,8% rispetto al 2,2% di quest'anno. Ecco, lo so che in questa girandola di numeri ci si perde per radio, ma è per capire che il ministro dell'economia ancora una volta si conferma la vera carta in mano del governo di centrosinistra di tutti questi anni, perché puntigliosamente, senza mai alzare la voce, sempre rimanendo seduto al tavolo, costituisce un castello concatenato che ha portato, per essere chiari, se vi ricordate, il primo DEF del governo Renzi ad aprile del 2014 diceva che nel 2017 il deficit doveva essere lo 0,4% del PIL e invece sarà il 2,2%, tutto il resto l'ha portato a casa Padoan, e il DEF di due settimane fa diceva che il deficit dell'anno prossimo avrebbe dovuto essere l'1,2% e invece sarà l'1,8 almeno, e anche questo vedremo se ci riuscirà, ma intanto lo porta a casa Padoan. In questo quadro noi oggi riflettiamo su un altro punto, cioè su Le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia di ieri, perché la riflessione deve tenere conto di alcune questioni importanti sollevate in queste considerazioni. Sono le ultime del governatorato di Ignazio Visco. C'è una questione aperta su quale sarà la scelta che i governi, quale governo anche vediamo, ma insomma, dovranno assumere per la sua successione. Non è un mistero che punti alla conferma. La relazione oggi, negli articoli di giornale che ne hanno dato conto, i più hanno preferito soffermarsi sugli ammonimenti al governo, o per meglio dire ai governi, perché la parte di ammonimento ai governi è stata considerevolmente energica nel dire che la politica continua a non capire che le riforme devono essere incisive, perché il piano di abbattimento del debito pubblico deve essere in un orizzonte temporale ma con obiettivi molto significativi. E a questo proposito il governatore ha anche, per così dire, avanzato una simulazione dicendo: se partiamo dal presupposto di avere un decennio di crescita comunque moderata reale, cioè l'1%, di una crescita nominale, inflazione del 2%, beh, se noi teniamo surplus primari, cioè più avanzi di spesa al netto degli interessi sul debito pubblico pari al 4,5% del PIL annuo, beh, noi scendiamo già al 120% del PIL. Peccato che avanzi primari di quelle proporzioni siano tre volte superiori a quelli a cui sono scesi in questi anni con i governi che noi abbiamo alle spalle. Quindi, come vedete, è un esempio molto energico, molto molto molto energico. Molti hanno preferito titolare su questo, ma c'è anche una questione che riguarda le banche. E su questa questione il governatore ha ribadito tutto quello che la Banca d'Italia ci propone. Nessuna parola di autocritica, non un solo passaggio in cui, nemmeno a proposito delle banche risolte dicembre 2015 o sulle due Venete in corso o su Siena, su cui c'è stata una novità, un accordo di massima stamattina con la Commissione Europea, non in uno solo di quei casi su cui le procure indagano, il governatore ha ritenuto di dover dire c'è stata anche una fallacia, un fallimento della vigilanza. No! Dice il governatore, non c'è stata, l'ammontare dei crediti deteriorati si deve solo alla crisi dell'economia reale e non a difetti anche dei regolatori di fronte a della malagestio che almeno in quelle banche è accertata e come. E anzi il governatore, in un fuor d'opera, cioè in un passaggio a braccio rispetto al testo delle sue considerazioni, anche rivolgendosi direttamente a chi critica, quindi anche a quelli come me che hanno criticato, ho detto: non mancherà il tempo per ricostruire al meglio il nostro operato e si vedrà che ci siamo sempre comportati con il massimo della rettitudine. Tanto che, e ho finito, stamattina Federico Fubini sul Corriere della Sera evocava da questo punto di vista altri passaggi di altre considerazioni finali dei tempi in cui la Banca d'Italia fu al centro di un attacco vero e temibilissimo, terrificante, da parte della finanza nelle mani dei partiti e della P2, dei tempi di Baffi. Ecco, allora, partiamo da questo. Abbiamo due ospiti, io ho finito di parlare perché io sono molto curioso di capire come loro intendono questo equilibrio. Da una parte ruvidi nei confronti della politica, dall'altra autoassolutori sulla propria vigilanza, e se in ogni caso, anche ai loro occhi, sia vero e fondato che chi critica l'atteggiamento, ieri confermato dalla Banca d'Italia verso le regole europee, cioè la critica alla direttiva della risoluzione bancaria, la critica nei negoziati con la Commissione Europea, il governatore ha detto ieri l'Unione Europea è più brava a dire no che a risolvere i problemi, li fa durare molto più a lungo, quindi la lunga trattativa su Siena e le due Venete, e così però le autorità europee, più brave a dire no che a risolvere, fanno incarognire, non ha usato questo verbo, ma rendono ancora più temibili le crisi bancarie, perché in realtà ne ampliano l'effetto sistemico, visto che invece di risolvere rapidamente, come queste autorità dovrebbero aiutarci a fare. Quindi un'accusa molto motivata. Allora, abbiamo con noi Beniamino Piccone, che tra l'altro, oltre alle sue diverse attività, ha proprio dedicato al ricordo di Baffi, a quelle pagine della Banca d'Italia scritte, secondo me, verso i quali essergli molto grati. Grazie di essere con noi, Beniamino. Grazie a voi. E Ferdinando Giuliano su Bloomberg commenta e segue le vicende anche dell'Italia dopo il passaggio che ha avuto a Repubblica. Grazie di essere con noi, Ferdinando. Buonasera, grazie a voi. Comincio da te, Giuliano, con l'ottica esterna. Innanzitutto, tutta l'enfasi e l'attenzione che noi diamo alle costellazioni annuali c'è altrove, nelle altre banche che fanno parte del sistema europeo delle banche centrali, o noi per antica abitudine diamo un eccesso di importanza alle parole del governatore di una banca che oramai fa parte di un sistema in cui il tasso di interesse si decide altrove? All'estero è un discorso del governatore di un paese importante, quindi dato diciamo la rilevanza che si dà a un discorso di un governatore di un paese importante, quindi dipende un po' da quello che dice sulla politica monetaria o sulle banche. Quest'anno? Ma in quest'anno molto poco, perché di fatto ha detto poco su questi due fronti, quindi è un, giustamente un rito molto italiano, c'è questo aspetto di cercare di dire delle cose scomode nei confronti del governo, e quindi viene sempre preso un po' come si può dire, una lezione che viene fatta al governo. Questo è l'aspetto che sembra essere molto richiamato in Italia. Diciamo, dal mio punto di vista è più interessante cercare di capire quello che la banca ha da dire sulle condizioni del sistema bancario e sulla politica monetaria della BCE. Questi sono, diciamo, i due temi. E che ti è sembrato su questo? Secondo me sulla questione dell'eurozona, diciamo, dell'eurosistema, a me è molto piaciuto quel passaggio che lui ha fatto di difesa della presenza dell'Italia nell'euro. Quello era un passaggio, secondo me, molto interessante e ben costruito. Sulla difesa della politica monetaria della BCE, ha ripetuto un po' quello che la Banca d'Italia ha detto per mesi. Sappiamo che la Banca d'Italia ha una posizione molto da colomba all'interno dell'eurosistema, quindi da quel punto di vista ci sono poche novità. Quello che mancava era un po' l'elemento di secondo me costruttivo su tutti quelli che sono i dossier europei importanti, cioè sul completamento dell'unione bancaria. A me è molto colpito alla fine del discorso appunto un passaggio in cui Visco se la prendeva molto con appunto il dire sempre no da parte delle autorità europee, e allo stesso tempo però richiamava l'esigenza di completare l'unione bancaria con la garanzia comune sui conti correnti. Ecco, queste due cose purtroppo sono in contrasto, quello è il problema, perché nel momento in cui sono state approvate delle regole, per esempio quella del bail-in, che la Banca d'Italia critica molto, sono state anche fatte per permettere una mutualizzazione dei rischi, così come avviene per esempio con la garanzia comune sui conti correnti. Quindi se giustamente la Banca d'Italia vuole un completamento dell'unione bancaria, e allo stesso tempo non può chiedere una revisione sulle regole, per esempio sul bail-in, perché a quel punto gli altri partner europei, la Germania in primis, avrebbero enormi difficoltà a fare quei passi successivi. Quindi diciamo, da quel punto di vista l'ho trovato insomma un po' una contraddizione evidente. L'ultimo punto, ovviamente, c'è tutto il discorso sulla vigilanza della Banca d'Italia nelle crisi bancarie. Io penso che, non so, do alla Banca d'Italia un po' il beneficio del dubbio, però avrei voluto vedere in questi mesi, come si può dire, un approccio un po' più robusto nel dire vi facciamo vedere perché non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Io ho scritto, mi ricordo qualche mese fa, un editoriale su Repubblica, quando ancora lavoravo lì, in cui dicevo che forse sarebbe il caso di avere una review della cosa che si fa spesso nelle altre banche centrali, per esempio Bank of England, sul comportamento della Banca d'Italia in questi anni, da cui può uscire tranquillamente che non c'è stato nessun errore. Io non credo che ci sarebbe, insomma, sarebbe possibile, però lo deve fare qualcuno di esterno dal mio punto di vista. Bisogna chiamare un banchiere centrale da fuori, fargli vedere tutto quello che è successo e poi leggiamo quelle conclusioni. E forse potrebbe essere un esercizio utile per la stessa Banca d'Italia dal mio punto di vista. Ecco, sono molto a favore di qualche innovazione nelle procedure della verifica ex post come stimolo per il miglioramento della best practice su una prassi, quella della vigilanza, su cui continua a gravare secondo me un eccesso di riservatezza. È vero che poi naturalmente i risultati delle ispezioni vengono diramati, non in tutto e per tutto, non solo grazie a quello che le procure hanno acquisito nelle loro indagini in quelle banche, abbiamo saputo di più di quello che avevamo capito e avevamo tentato di scrivere, alcuni noi, non tanti, negli anni di giornalisti, avendone però la conferma. Ci sono poi ulteriori segnali, troppi dirigenti di Banca Italia che diventano dirigenti bancari da parte di gruppi che in questo inevitabilmente, oltre ad apprezzare la qualità professionale straordinaria e i valori di rettitudine di uno dei grandi centri storici dell'eccellenza della pubblica amministrazione, che è la Banca d'Italia nella storia del nostro paese, però le indagini delle procure mostrano che in quelle banche queste scelte venivano anche per orientare il regolatore e innalzare qualche barriera di benevolente opacità. Ecco, mi limito a dire questo. Tutte cose che non ci inventiamo, cari ascoltatori. Ma ripeto, basta leggere l'ultimo libro di Andrea Greco sulle banche popolari per avere la filza di ex dirigenti di Banca d'Italia che stanno nei vari istituti. Niente di male, no, a patto però che ci siano degli strumenti di verifica, trasparenza per imparare, fare meglio ed essere più però anche aperti alla verifica. E mentre invece il tono anche ieri era quello di dire verrà il tempo, giorno verrà, ve lo ricordate padre Cristoforo, don Rodrigo, che dice alza il ditino, dice giorno verrà, no, non ci siamo per un sistema di trasparenza piena come quello che il regolatore bancario, come tutti i regolatori di mercato deve tentare di avere, deve essere predictable, no? Deve essere prevedibile perché si rifà a norme certe e deve essere verificabile ex post. Ecco, tutto qua quello che si chiede da parte di chi fa il mestiere del giornalista, ma anche dell'attore, dell'osservatore del mercato. Allora, torniamo tra un minuto con Beniamino Piccone e riprendiamo la questione dall'inizio. C'è un attacco che possa far ritenere in Banca Italia che ci sia un'atmosfera da parte della politica, di pezzi della finanza, paragonabile a quello di chi ha evocato il precedente di Paolo Baffi? Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta. Nel frattempo, cari ascoltatori, vi informo, vi leggo un'agenzia che è uscita, titolo Alfano, collaborazione con il PD è finita. La mia collaborazione con il PD è conclusa, lo afferma Angelino Alfano, leader di Alleanza Popolare, al termine dell'elezione del partito. La soglia del 5% sarà la scintilla per organizzare una rappresentanza liberale e popolare che tutti i sondaggi dicono possano superare il 10%. Comunque, la collaborazione è finita. Ecco, diciamo che Alfano, se capisco bene, sta onorando il patto con Renzi, ma non lo so, questo l'ha detto lui, ma vi volevo informare. Ritorniamo con Beniamino Piccone alle considerazioni annuali svolte ieri dal governatore della Banca d'Italia e ricomincio dalla cosa di cui ti sei magistralmente occupato. Quel libro io lo distribuirei nei licei italiani, a dire la verità, perché è una delle pagine più nere di cui bisogna continuare ad tenere alto l'onore di chi fu colpito e la memoria di ciò che consentì quella roba. Ma secondo te c'è un qualche raffronto possibile? No, assolutamente no. Il passaggio di Visco su questa vicenda è stato sfumato perché voleva dare un tributo a Ciampi, un tributo meritorio, perché Ciampi è scomparso il 16 settembre, è giusto che la Banca d'Italia, visto che Ciampi è stato una vita in Banca d'Italia, lo ricordasse. E alla fine del ricordo Visco dice Ciampi è diventato governatore dopo appunto la drammatica vicenda che ha visto ingiustamente colpiti i suoi vertici. Ecco, i vertici, lo ricordiamo, è stato incriminato Paolo Baffi, che non è andato in galera solo per raggiungere i limiti d'età, mentre è stato Mario Sarcinelli, che era vice direttore generale della banca nel 79 e soprattutto responsabile della vigilanza. Allora, secondo me il passaggio oggi di Fubini è un po' forzato, perché sono due situazioni completamente diverse. Cioè, negli anni, alla fine degli anni 70, con un cambio molto forte sulla politica della vigilanza rispetto al governatorato Carli, Baffi diede proprio una forte effettività alla vigilanza, nominando appunto Mario Sarcinelli, che era noto essere una persona non solo di un'integrità morale fortissima, ma anche di una preparazione nettamente superiore agli altri, sarebbe certamente diventato il governatore della Banca d'Italia senza questa vicenda. Se pensiamo che il 19 agosto del 77, quando ancora a Roma eravamo tutti in spiaggia dopo Ferragosto, Sarcinelli e il suo team entrano all'Italcasse, che era sostanzialmente il feudo della Democrazia Cristiana guidata da Giuseppe Arcaini, e scoprono che in banca ci sono dei conti, numerosi conti correnti intestati a personaggi di fantasia come Ugo Fantozzi, come Pentola Vecchia, Pentola Calda e altri nomi di questo genere, che servivano per far transitare le tangenti, che servivano alla Democrazia Cristiana per ungere sostanzialmente tutte le prebende e le situazioni poco chiare di quell'economia dove lo Stato e le partecipazioni statali lo siano un po' rilevante, senza considerare considerare la FIR di Rovelli e altre situazioni poco piacevoli, capiamo come in quegli anni la Banca d'Italia sia stata attaccata duramente, perché la Banca d'Italia poi andò nel santuario del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e andò nell'altro santuario di Sindona, che era difeso artatamente da Giulio Andreotti, che era Presidente del Consiglio, che lo definì in un viaggio in America il salvatore della lira. Allora, se dobbiamo tornare su queste vicende, dobbiamo dire che Baffi e Sarcinelli furono ingiustamente attaccati e proditoriamente, come è stato detto nell'intervento di Ciampi, quindi in modo vile, ingiusto, dalla politica, che però aveva dietro di sé i Calvi, i Sindona e gli Italcassi. Non ricordiamoci che anche l'avvocato Ambrosoli fu ammazzato l'11 luglio del 79 perché non voleva che venisse fatto un papocchio, come è stato definito da Cuccia, cioè un salvataggio a carico del contribuente della banca privata italiana. Quindi erano anni di terrorismo nero, di terrorismo rosso, di inflazione galoppante, di shock petroliferi e di una vigilanza che è stata attaccata in quegli anni, perché è una vigilanza fortissima. Esatto. Baffi è stato il primo a inserire un capitolo in considerazioni finali dedicato alla vigilanza, e il professor Masciandaro, che appunto scrive come oggi sul Sole 24 Ore in prima pagina, l'ha definito il governatore della vigilanza. Quindi allora erano stati attaccati per essere stati troppo rigorosi. C'è il giudice Alibrandi, che aveva il figlio poi che è stato ucciso in uno scontro a fuoco alla polizia perché appartenente ai nuclei armati rivoluzionari, che in un'intervista rubata da Menghini del Tempo disse: ma insomma, questi magistrati vanno solo nelle banche dove governa la Democrazia Cristiana. Siccome la Democrazia Cristiana governava molte banche, la Banca d'Italia aveva un programma molto analitico di ispezioni e andava in tutte le banche senza guardare a santuari del potere. Per cui, mentre allora la Banca d'Italia fu attaccata per eccesso sostanzialmente di vigilanza, anche per il cambio forte rispetto al governatorato Carli, questa volta la Banca d'Italia è stata accusata più che altro per una titubanza, per essere arrivata tardi o per aver agito con troppa morbidezza con banchieri che appunto sicuramente sono i veri colpevoli della mala gestio, dove però si poteva in qualche modo intervenire, per esempio obbligare la Banca Popolare di Vicenza a dare il parere negativo in assemblea sul stabilire il prezzo dei periti per quanto riguarda il valore dell'azione, oppure in altre situazioni poteva addirittura commissariare altri istituti di credito perché ci sarebbero state le condizioni. Quindi da una parte la Banca d'Italia ha buon ragione, ha ragioni da vendere nel dire che è la crisi economica che ha creato il grosso dei problemi, ha ragione nel dire che i banchieri ci sono sempre stati, i banchieri manigoldi, i banchieri ladri, ha ragione a dire che i poteri alla Banca d'Italia sono arrivati tardi, ha anche ragione nel dire che la magistratura ha delle responsabilità. Ad esempio nel caso di Banca Carige sono indagati i magistrati di Genova, che hanno messo sempre in fondo alla pila le relazioni della vigilanza, perché non so se tutti sanno, ma quando la Banca d'Italia vede dopo l'ispezione delle possibili situazioni penali, la Banca d'Italia non è la magistratura e dà la relazione ispettiva ai magistrati, che hanno l'obbligo di indagare. In molti casi i magistrati, anche la Procura di Vicenza, nel caso Popolare di Vicenza, ha nicchiato nel caso della Banca Carige, e quindi la Banca d'Italia in quei casi lì può solo insistere, come ha insistito molto bene nel caso di Veneto Banca, perché a Veneto Banca, visto che le procure in Veneto non facevano nulla, è riuscita a far partire l'indagine a Roma, e infatti su Veneto Banca le indagini sono state molto più incisive, perché Giuseppe Pignatone a Roma sta veramente facendo dimenticare il fatto che la procura fosse il porto delle nebbie. Altro che porto delle nebbie, Coglielo e altri grandi collaboratori, sta tra l'altro lavorando molto intensamente con la UIF, guidata dall'ottimo Claudio Clemente, che è l'unità di informazione finanziaria da cui vengono fuori tutte le indagini sulla movimentazione dei conti in tutta Europa. Allora, io ringrazio Beniamino Piccone, perché come vedete per equilibrio ho voluto deliberatamente che Beniamino ricordasse la differenza di circostanze totale di ogni possibile raffronto e totalmente infondato rispetto all'attacco indegno a Baffi e Sarcinelli, contemporaneamente i meriti della Banca d'Italia. E lasciatemi dire però, la mia voce di critica è verso alcune vicende particolari. Io smetterò di criticare quando qualcuno mi dimostrerà che quando la Banca d'Italia voleva portare Etruria a Vicenza, cioè fino a maggio dell'anno precedente alla risoluzione, quali fossero le ragioni fondate, perché secondo me non ce n'erano di alcun tipo, e su alcune altre cose. È un diritto di critica che si risolve con quello che proponeva prima Ferdinando Giuliano, una review pubblica sistemica dei criteri di vigilanza. Non c'è niente di male e saremo tutti felici di avere delle risposte a domande che oggi restano senza risposta. Viva come sempre però la grande tradizione della Banca d'Italia. Grazie ai due ospiti, continuate su Radio 24.